Allora, primo, tu che ci aiuterai in questa riscoperta degli aspetti più dimenticati di Milano, puoi iniziare col darci qualche chiave interpretativa su alcune classificazioni, ad esempio femminili, che ci sono? Direi di sì, ovviamente facendo una premessa di questo tipo, che quando si parla di definizioni in dialetto le stesse vanno interpretate come nascita da un lato di sovrapposizioni linguistiche di popoli che sono passati, da Milano sono passati i Longobardi, i Celti, gli Spagnoli, i Romani precedentemente, e che quindi una parte di queste definizioni hanno un significato puramente letterario e altre invece nascono da usanze, costumi, comportamenti interpretati in maniera diversa anche dagli storici. In particolare per il dialetto alcune frasi, alcune definizioni sono spesso intraducibili se non si risale ad alcuni fatti che le hanno determinate, ad alcuni comportamenti che le hanno influenzati. Per altre invece è più semplice riferirsi alla derivazione linguistica, che può derivare appunto per i nomi dei paesi, non so, come Montevecchia, per fare un esempio, di origine, vorrei dire Montevegna in realtà, erano questi posti di avvistamento per la difesa della città, quindi hanno derivazioni o longobarde o romane, o Sesto Calende, tipico che deriva da Sestium, dai Sestium romani, o Sesto San Giovanni ugualmente, no? O Quinto Romano, per fare un esempio. Quindi è più semplice. Quando invece la definizione riguarda le figure sociali, le donne, i malavitosi, i mestieri, evidentemente le definizioni derivano da culture che dominavano in quel tempo o da un sovraccarico di significati che sono determinati successivamente. Per quello delle donne la storia è molto divertente e anche indicativa di una cultura che è quella milanese, che tende sempre a riassorbire tutto in termini così un po' borghesi socialdemocratici, ma no? Ed è esemplificata da queste tre definizioni che si danno delle ragazze, no? Di cui due, perlomeno una molto nota tuttora, che è Tusan, per le ragazze giovani si chiamano Tusan, no? E due, le altre due più dimenticate, la seconda era Bajan, che stava per le ragazze che venivano da fuori, che venivano fuori dai borghi, e la terza, che è totalmente dimenticata, che era le cicche, chiaramente di derivazione spagnola, tanto che un quartiere intero di Milano, che poi Porticina si chiama Porta Cica, quasi come collocazione storica. Allora, la questione delle cicche è molto, molto, molto semplice. Porticinese, come molti sanno, è sempre stato un quartiere del borgo esterno, del vecchio borgo esterno alle mura, alle mura romane, alla cerchia dei Navigli, a volte interno alle mura spagnole, ma anche esterno alle mura spagnole, che sarebbero quelle che vanno da piazza 24 Maggio circolarmente la circonvallazione. E in questo quartiere, fino dall'antica Roma, era il quartiere della soldataglia, dei giochi e delle case di tolleranza. Allora potevano chiamarsi lupanari e poi successivamente in altri modi. Quindi, dando per scontato che si sa che, non so, Vicolo Calusca, appunto, derivava da case losche, perché c'erano le case di tolleranza, che l'arena che c'è in via Arena era il luogo della soldataglia romana, dove si andava a giocare ai dadi, dove si andava a giocare a fare i giochi classici da circo, e che poi intorno quindi aveva tutte queste case per le donne. Nel periodo spagnolo ha mantenuto e ampliato queste caratteristiche, per cui le ragazze di questa zona, proprio per derivazione, per mischiature di razze e di sangue, si suppone, secondo un po' l'immaginario popolare, che fossero piccole more, e da qui derivava questo termine di cicche. E oltre, ma cicche aveva un significato morale già più complesso, perché voleva dire che erano, essendo latine come definizione, erano più disponibili ai rapporti amorosi liberi, usare un termine, o la davano via, come si dice nella canzone su Porta Romana, no? Si sa, le ragazzine che te la danno. E quindi aveva un termine dispregiativo e popolare contemporaneamente, dispregiativo invece per la borghesia, e infatti è stato rapidamente abbandonato. Con una serie di interpretazioni parallele per cui l'uomo della cica, della ragazza, si chiamava Luke, il Luke, che nell'interpretazione della borghesia milanese è uno che capisce poco, un po' scemo, è stato un Luke, no? In realtà deriva chiaramente dallo spagnolo loco, così un po' scemo, ma invece il Luke era uno molto sgamato, era uno, infatti in questi libri di Valera il Luke viene visto come un giovinastro che è sempre in giro a bere, che non lavora e che porta via i soldi alle ragazze, quindi diciamo un macro leggero, non violento, ma sostanzialmente molto furbo, che attraverso il suo aspetto fisico, la sua abilità, imbrogliava le donne, quindi era tutt'altro che uno scemo, magari in termini morali era criticabile, non era uno scemo. E invece nei quartieri nord, e questo dà un po' la classificazione della divisione di questa città, nella Milano colta, diciamo, c'è questo termine Tusan, Tusanetta, i Tusan, che ha un'origine antica e divertente. Ora si suppone che al contrario queste ragazze definite Tusan avessero invece le trecce e bionde, invece che more, trecce bionde. E queste trecce bionde venivano tagliate quando la ragazza aveva le prime mestruazioni, cioè diventava donna, ma aveva un significato di comunicazione sessuale, di segnale erotico, come spesso il trucco, del resto come tante altre questioni che riguardano le donne. E venivano tagliate per significare che erano pronte per fare l'amore, quindi tagliavano queste trecce e diventavano da ragazzine, diventavano Tusan, tosate, Tusan. Ed è anche un episodio che era sintetizzato nella storia di Milano attraverso un basso rilievo che un tempo era in piazza Cinque Giornate e quindi proprio diciamo, nel cuore della Milano che sta tra Vittoria e Monforte, che si suppone anche allora fosse poi il centro della borghesia mercantile, ricca, imprenditoriale, dove veniva rappresentata una principessa longobarda, anche lei con queste treccioni bionde che gli scendevano lungo le spalle, perché aveva le trecce ancora la principessa quando invece ha dovuto tagliarle, perché le principesse erano esenti da questo rito della comunicazione e quindi si poteva supporre che fossero illibate all'infinito semplicemente col segnale dei capelli lunghi. E questa principessa aveva tradito il marito e quindi venne portata sulla pubblica piazza e venne tosata al pube, e su questo bassorilievo c'era appunto questa principessa piccola con le vesti alzate, con una specie di rozzo rasoio che gli, con una mano che usciva dal bassorilievo, che gli stava tosando il pube. Poi venne tolta da questa piazza ed è tuttora nei sotterranei del castello questa immagine. E quindi evidentemente però tutta questa questione che riguardava la sessualità della donna veniva interpretata in un modo perbenista attraverso questo segnale gentile del taglio delle trecce, in un modo di classe attraverso il mantenimento delle trecce sui ceti alti, cioè la principessa, e invece in modo assolutamente diverso per ciò che riguarda i quartieri popolari, cioè le cicche. La terza definizione invece, che sono i Bajan, deriva chiaramente perché il borgo per antonomasia del periferio di Milano era Baggio e quindi derivava da Baggio. Tant'è che appunto il termine bagiana era un termine dedicato alle ragazze che venivano da fuori, quelle che capivano meno, che erano più facilmente imbrogliabili. In realtà deriva semplicemente dall'abbreviazione geografica. E fino agli anni 50 i ragazzini, quando uscivano da scuola, appunto chiamavano le altre bambine come con una definizione per loro offensiva, bagiana, bagiana, bagiana. C'è una seconda aggiunta a questa definizione che conferma questa ipotesi su Baggio, che è un'altra espressione milanese, no? Di doppio significato, che era va a Baggio a suonare l'organo. Allora, vai a Baggio a suonare l'organo, è vero che in questa chiesa di Baggio antichissima c'era un organo, c'era un organo da chiesa, evidentemente, invece aveva ovviamente un significato ampiamente diverso, vuol dire andare a Baggio a suonare l'organo, vuol dire andare a Baggio a fare l'amore, che è più facile, evidentemente, quindi la Baggiana era una che ci stava, era talmente stupida che poteva imbrogliarla facilmente, quindi per quanto tale era una Baggiana. La stessa cosa non voleva per le cigre, invece erano sgamatissime, nel senso che potevi andare anche con quelle di porta ticinese, di porta cicca, solo che lì dovevi pagare il prezzo, dovevi, cioè qualcosa dovevi dare indietro. Ecco, allora attraverso queste tre definizioni si vede quante stratificazioni di classe e giudici si formavano poi nel dialetto sulla questione della definizione delle donne, che mi sembrava abbastanza interessante, su cui poi uno potrebbe scavare a lungo, perché poi una serie di altri detti paralleli in qualche modo si ricollegano a questa interpretazione primaria che faceva nascere la parola dialettale. Allora, Primo, continuiamo il nostro viaggio all'interno del quartiere ticinese. Tu mi parlavi di una polemica di qualche anno fa sul problema dell'inserimento dei diversi in questo quartiere di diversi. Sì, c'era stata una polemica in un microfono aperto di Radio Popolare, credo nel 78, in seguito all'uscita di un articolo sopra Quelle della Sera, in prima pagina, fatto da Walter Tobagi, poi, come tutti sanno, ammazzato da Brigata 28 marzo, e di un'intervista a me in cui si indagavano su queste caratteristiche del perché il quartiere ticinese aveva questa altissima percentuale di sedi di sinistra e per quale motivo misterioso si fossero concentrati in questa zona. Il fatto degli affitti bassi non era una sufficiente giustificazione, anche altre zone di Milano hanno affitti bassi, a quell'epoca, oggi quasi più nessuna zona, affitti bassi, e soprattutto questa concomitanza col fatto che nel quartiere ticinese esistevano altre componenti, dotate di una particolare originalità, in parte citate nella prima riflessione sulla Milano in sparizione o scomparsa della settimana scorsa, sulla definizione dialettale di donne, quello che ci sta dietro come cultura materiale, poi popolare. E quello che fu sorprendente in quell'occasione è che questo articolo appunto provocò una reazione, direi, perbenista dagli ascoltatori di Radio Popolare, perché molti abitavano qui intorno e non si riconoscevano nell'immagine di questo quartiere, equivocando il concetto di diverso sostanzialmente, che poi venne chiarito nel corso della trasmissione, che durò, se ben ricordo, due ore e mezza, il microfono aperto. Però non ci fu il tempo di spiegare fino in fondo. Allora, può essere ripreso oggi con più distacco del clima di allora, anche perché poi tante cose sono avvenute successivamente, compresa la deprecabile scomparsa di Walter Tobagi. Allora il nodo di fondo era scoprire per quali motivi e percorsi misteriosi convivessero in un quartiere unico nel suo genere a Milano, in quegli anni, non precedentemente, precedentemente molti altri quartieri avevano caratteristiche di questo genere, soprattutto il centro di Milano, ecco, Via Larga, Via Bottanuto, Chiaravalle, oggi invece sono solo uffici evidentemente. Per quali motivi misteriosi questo quartiere avesse questa convivenza di persone diverse per collocazione economica, sociale, politica e che può essere ripreso con la sua originalità, perché altrimenti non si spiega, anche se devo dire che oggi come oggi questo quartiere è in fase di rapida distruzione, di strutturazione, no? Perché la variabile della fine dei movimenti sociali e politici, l'emergere massiccio della diffusione di tossicodipendenti in questo quartiere e quindi lo spazio dell'eroina ha modificato la vecchia struttura di questo quartiere. Allora, per fare questo ragionamento direi che bisogna premettere una questione fondamentale: il quartiere ticinese, sia in epoca medievale, sia in epoca romana precedentemente, e sia nell'epoca spagnola successivamente, era il cosiddetto vecchio borgo, come credo abbiamo già detto l'altra volta, contrapposto al borgo nuovo, che invece era quello dei ricchi a nord, del Tramonte Napoleone, Sant'Andrea e simili. Ed era un borgo esterno alle mura, ed era caratterizzato da un'unità culturale, popolare, economica anche, che non divideva le due zone come adesso, in zona 1, che è fino a piazza 24 maggio, e in zona 5, che poi è il quartiere dei Navigli, della Ripa Ticinese o del Corso San Gottardo. Era un unico borgo, detto più semplicemente, poi nel tocco ottocentesco, il borgo dei formaggiati, cioè commercianti di formaggi, sostanzialmente erano tutti concentrati in questa zona. E hanno considerato questa zona perché la più importante via d'acqua di afflusso delle merci a Milano erano i navigli notoriamente non si fermavano come adesso alla Darsena, ma entravano in via, in Cocca del Naviglio, oggi via, allora via degli Orocati, e poi quindi si entravano nella cerchia dei navigli, c'era il laghetto di Piazza Vetra, e poi si congiungevano all'altro naviglio a nord, determinando una circolazione delle merci su acqua che faceva Milano una specie di Venezia su canali fluviali del nord, per alcuni aspetti. E quindi il porto di Milano, che era la Darsena, era considerato alla fine dell'Ottocento il secondo porto d'Italia per traffico di merci. Ovviamente le merci che arrivavano nel porto di Genova erano molto diverse da quelle che arrivavano nel porto di Milano, cioè la Darsena di porto di Cinese, nel senso che nel porto di Genova arrivavano anche merci di importazione lontanissime dalle Indie, dalle Americhe, e nel porto di Porta Genova arrivavano più semplicemente da Vietegrasso, da Pavia, ovvero nella parte nord, da Como, dalla Brianza, dalla Bergamasca. E però erano merci di vario tipo, erano quindi le merci per la costruzione, anticamente per la costruzione del Duomo, tanto che era stato fatto un laghetto in Pier Santo Stefano che serviva quasi esclusivamente all'afflusso delle pietre per la costruzione del Duomo, per la costruzione del Duomo o per la fabbrica del Duomo ininterrotta che durava tanti secoli. E però, ecco, quindi arrivavano anche queste cose specifiche, la sabbia, le pietre, però arrivavano tutte le derrate alimentari di ogni tipo, dai formaggini di Montevecchia alle carni della bassa di Abetegrasso, insomma. E poi serviva anche a volte come battello per arrivare alle ville dei ricchi, verso Robecchetto, eccetera, eccetera. E quindi era un posto estremamente trafficato, e come sempre intorno ai porti si formano commerci paralleli, si forma un humus culturale popolare di commerci, di economia informale si direbbe oggi, no? Cioè, che determina una situazione di extraterritorialità col resto della città, fortemente approfondita sia nel periodo medievale che nel periodo spagnolo dal fatto che erano esterne questa Darsena, questo porto, era esterna sia alle mura medievali sia alle mura spagnole, tanto più a quelle medievali. Ecco, allora intorno a questi porti, come tradizione storica in tutte le città d'Europa e del mondo, si formavano commerci extralegali. Quindi vuol dire, la radice storica è questa qui. Dirò di più che invece nell'epoca romana la cosiddetta arena di via Arena attuale, che è un mistero, no? Della programmazione comunale milanese, nel senso che questa arena esiste veramente, no? Hanno fatto un giardino che c'è tuttora, non viene aperto al pubblico, c'è un pezzo di arena che è stato tirato fuori da sottoterra, non è stata completata il suo scavo per motivi molteplici, e però il fatto che ci fosse l'arena qui era fuori dalle mura romane era perché era il quartiere della soldataglia e della prostituzione, e come dicevo l'altra volta, riferendomi poi alle antichissime definizioni di donne in questo quartiere. Ora nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, questo quartiere quindi era il culmine del concentramento delle attività extralegali di questa città, e tant'è che negli anni 20 e 30 era chiamata la Casba. Allora bisogna immaginare un'unità territoriale, geografica, metropolitana tra la zona dei Navigli e quella di Porta Genova, e non separata come adesso da un'arbitraria divisione per zone, ma un'unità culturale con un dialetto fortemente più accentuato di quanto non fosse in altre zone, con un gergo popolare diverso e meno colto, ma sostanzialmente più creativo, perché è sprofondato dalle tradizioni di questo quartiere, e addirittura fino a questo meccanismo da pochi conosciuti che esisteva fino a, diciamo, agli anni 40, fine anni 40, inizio anni 50, un gergo della ligera, che sarebbe la malavita ligera, cioè la vita leggera, da cui deriva ligera in milanese, la quale si chiama così perché fa furti, ma non usa le armi, non fa omicidi, anzi disprezza chi usa la violenza, usa la destrezza, Quindi c'erano scuole di questo tipo che, come nei film di Totò, insegnavano a portare via il quai, che in milanese è il portafoglio, dalla tasca di un passeggero su di un tram o in un bar o in un cinema con i famosi campanellini, e tu dovevi imparare a tirare fuori questo portafoglio con dita senza far suonare i campanellini, era un problema, ovvero che giravano con delle lamette da barba sopra gli anelli, e allora passando in tram, loro tutti portavano il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni, passando in tram con una leggera carezza sopra le natiche del malcapitato, tagliavano la base della tasca dove c'era il portafoglio, e il portafoglio cadeva dolcemente nella mano del ladro. E c'erano tutte queste, si insegnava nei bar questa tecnica. E però a fronte di questa questione, e per quello si chiamava Casba appunto, c'erano anche invece moltissime attività artigianali popolari, c'era cioè una fabbrica diffusa della vecchia Milano, cioè in ogni portone c'era un laboratorio, c'era con 5-6 operai, 4-5 artigiani, e le signore di Ringhiera, le mamme di Ringhiera mandavano giù i figli a imparare i mestieri. Ora una parte decidevano evidentemente di seguire questo mestiere, di fare gli operai di mestiere, e una parte invece trovava più affascinante non lavorare per nulla e imparare altri mestieri. Era una variabile del mercato del lavoro. E quindi sono esistiti fin da allora in questo quartiere una convivenza estremamente civile, dovrei dire, no? Tra ladri, contrabbandieri, prostitute e artigiani, operai e popolo, senza che questo determinasse contraddizione. E se c'era un quartiere in cui uno della zona non poteva rischiare di essere derubato, era sicuramente questo, perché si va sempre, come si diceva, a fare nel bosco a fare la legna, cioè, e questo valeva. Aveva un doppio significato anche questo, cioè fuori dal bosco a fare la legna vuol dire fuori dal bosco a rubare, fuori dal quartiere a rubare, fuori dal bosco a fare la legna, invece poi nella trasmissione successiva popolare era anche cercare donne di altri quartieri, perché nel quartiere non potevi inguaiare una ragazza, perché o era sorella di un tuo amico, o perché era figlia della signora Rosa che stava a tressoppiare, questo non si poteva fare. Ora, qui c'è la mentalità tribale, le donne degli altri quartieri erano territorio libero, come le merci degli altri quartieri erano territorio libero, questo fa un'equivalenza tra merce e donna che non è elegante, però sostanzialmente questo era. Nel quartiere ci si sposava, come principio. Quindi il quartiere è stato dato dai proprietari di casa ancora negli anni 50 come perso, perché talmente radicata questa popolazione, questo modo di muoversi, di pensare, nella tradizione di migliaia e migliaia di persone, talmente radicata da essere indistruttibile se non con una deportazione di massa, con un annullamento, abbattimento totale del quartiere stesso. E in questo quartiere ancora oggi, ma negli anni 50, negli anni 60 ancora di più, vi sono persone, e vi erano persone, che vi abitano da 50 anni, cioè da lontano 1930, da lontano 1920 o da 60 anni, che sono in sparizione anche per i limiti di età. All'inizio degli anni 60 e verso la fine degli anni 60, prima dell'inizio delle grandi lotte per la casa, vennero distrutti interi agglomerati popolari, vale per tutti via Scaldasole, vengono sfrattate 500 famiglie e trasferite in altri quartieri. Una volta un tema di merito per creare terrore negli altri quartieri bastava dire miso un nasso in via Scaldasole a 14, quello che era duro, ma proprio duro, guai a toccarlo, perché se toccavi lui ti trovavi addosso una casa abitata da ben 500 persone, insomma, che solidalmente avrebbero poi fatto la spedizione di risposta punitiva. E quindi i proprietari di casa avevano rinunciato alla speculazione edilizia su questo quartiere, tanto più che a cavallo tra la nascita del fascismo e la fine del governo giolittiano era stato costruito quasi come simbolo massimo di questo quartiere nel suo cuore, cioè in Conca del Naviglio, angolo Marco Dogione, il cosiddetto albergo popolare, che è riportato in fotografia anche sulla storia d'Italia in Audi, era un albergo gigantesco che andava da Marco Dogiono quasi fino al Bar Cucchi, prendeva un largo lato di Conca del Naviglio, con centinaia di stanze a bassissimo prezzo, dove coloro che arrivavano anche dall'Interland milanese, da questo rapporto complesso città e campagna che c'è sempre stato su Milano e che ha ispirato questo libro straordinario di Danilo Montaldi che è Autobiografia della Leggera, non a caso, arrivavano qui e per inserirsi in queste attività estralegali o microcriminalità, si direbbe in un linguaggio colto oggi, e non trovavano le case, allora dormivano in questo albergo. Tranne quando arrivava la polizia, arrivava con i camions e portava via tutto l'albergo, non è che controllava stanza per stanza, si pagava pochissimo, quindi era un po' il simbolo. A domenica mattina quelli che abitavano in questo albergo facevano una fiera di Sinigaglia parallela sullo spartitraffico centrale con alberi di Conca del Naviglio, esponendo tutte queste merci sostanzialmente rubate. E allora anche i cittadini derubati andavano a cercare le proprie merci lì con una logica di complicità che era questa, che comunque questo qui aveva lavorato, questo grande mito del lavoro democratico milanese, e quindi non è che potevano chiedere tu Kurt indietro le merci andando lì col poliziotto o col vigile urbano, dicevano vabbè, tu trattavano il riacquisto delle loro merci ad un prezzo più basso di quello che lui avrebbe venduto ad un passante qualsiasi, quindi c'erano questi equilibri. Quindi il quartiere per i proprietari di casa, e nella gran parte la proprietà di questo quartiere era della Ceschina, antichissima proprietà immobiliare che era anche editore reazionario, davano per perso da un punto di vista della soluzione immobiliare perché avevano bassissimi prezzi di affitti, erano case di ringhiera, le lasciavano degradare, e tant'è che quando all'inizio del 68 sono arrivati i politici, è stato facile trovare qui sedi libere, aperte anche molto grandi, perché? Perché l'introduzione della catena di montaggio, la nascita dell'operaio Massa, per fare un discorso di riferimento politico, hanno determinato la progressiva distruzione della fabbrica diffusa, cioè della fabbrichetta di quartiere, diciamo, dell'officina di quartiere, e quindi questi luoghi rimanevano deserti, non erano affittabili come abitazioni, se non attraverso una ristrutturazione che non valeva la pena di fare, perché tanto non avresti trovato l'inquilino per bene che veniva ad abitarsi, nel senso che si sarebbe trovato circondato da questa complessa umanità che abitava in questo quartiere, che abita in parte in questo quartiere, e quindi le lasciavano abbandonate lì. E invece per le sedi politiche, tenuto conto del mito proletario, del rigore e della povertà per alcuni aspetti che erano questi momenti politici nel loro sorgere, del vivere come un proletario, anche questi enormi stanzoni erano utili a questo. E i proprietari di casa erano abituati talmente a tutto, ai ladri, alle prostitute, alle bische, che l'arrivo di quelli di lotta continua, del manifesto, di Avanguardia Operaia o di Controriformazione o di Primo Maggio o della Libreria Calusca o del Collettivo delle Donne, per loro non era che una variabile della bizzarria dei comportamenti collettivi che produceva questa città, non facevano grandi differenze tra l'uno e l'altro, cioè, beh, sono arrivati anche questi, ma qui arrivano tutti qui inevitabilmente, quindi affittavano queste sedi. E quindi la sinistra si è inserita massicciamente in questo quartiere, determinando la più alta concentrazione sovversiva, potrei dire, di qualsiasi altra città d'Italia, in uno spazio sostanzialmente ristretto, geograficamente, cioè in maniera toponomastica, in questo quartiere si è concentrata a breve distanza anche con alcune funzionalità che vengono le politiche per i cosiddetti intergruppi. Qui era molto semplice, non molto semplice, perché bastava attraversare la strada o scegliere una sede o quell'altra. E quello che è sorprendente è che anche dagli abitanti del quartiere, che qui stanno da 30-40 anni, sono stati accettati senza nessuna particolare problema, era un accrescimento della complessità, e io questa la definisco una forma di civiltà molto alta, perché non sono andati subito in comunicazione con questi che vestivano in modo strano, diverso, cioè, pare un po' dei barboni, ma dei bravi figli, sono un po' barboni, sono dei bravi ragazzi, insomma. Poi sono queste bandiere, ma se loro faranno niente, però sono simpatici, riempivano i bar, portavano anche afflusso di commercio, c'è anche una considerazione materiale, compravano tante cose nei negozi, nei droghieri, nel Rieni, Salumieri, ovvero nel Fundeghene, Cervelè, qui come definizione, e quindi si sono integrati perfettamente in questo tessuto, passando poi successivamente nella fase alta anche ad occupare quelle case di ringhiera che i proletari abbandonavano, perché i proletari nella casa di ringhiera c'è nato la detesta e quindi aspirava alla casa col bagno e i marmi, e invece per motivi misteriosi questa intellettualità politica prodotta dai movimenti degli anni 70 aspirava a stare nella casa di ringhiera perché si trovava qualcosa di romantico, di rifiuto delle comodità borghesi, cioè un meccanismo un po' perverso e contraddittorio. Il culmine proprio, direi, di questa questione è che dà la misura, diciamo, dell'intelligenza e della tolleranza di questo quartiere, è la nascita di questa casa di via Gaudenzio Ferrari, che è una casa sostanzialmente straordinaria dove abitano nella gran parte dei travestiti dediti al commercio del proprio corpo. E sono clamorosi perché spesso sono anche molto belli, come tutti sanno, quindi si travestono da donna la sera e poi passeggiano in via D'Annunzio e in altre zone, e hanno spesso comprato questi appartamentini ormai vuoti e abbandonati, li hanno ristrutturati, li hanno trasformati in garçonnière per il loro lavoro. E questi però sono clamorosi perché escono seminudi la sera. Nemmeno questo ha determinato, non c'è una sola protesta al consiglio di zona nei confronti nemmeno di... O se protesta c'è stata, credo che sia più negli ultimi 2 o 3 anni che non nella fase alta, diciamo, negli anni 70. E anche questo è un indice di questa capacità di convivenza tra diversi, senza applicare categorie di valore, ma riportando ogni comportamento alla tolleranza e alla capacità di comunicazione e di arricchimento anche di conoscenza, nel mentre c'è questa tradizione culturale popolare di interpretare i comportamenti materiali come determinati la società in cui vivi, questo è tolleranza. E vorrei chiudere con l'episodio più singolare che dà poi l'indice, cioè durante il fascismo questo quartiere qui, in un tentativo estremo di bonifica da parte del sistema dominante allora, cioè quello fascista, venne costruita questa enorme sede in Piazza Cantore, che era la sede del fascio, e venne donata questa sede del fascio da De Magistris, famoso cartolaio milanese, allo Stato, cioè al Partito Nazionale Fascista. Infatti c'è scritto fuori Fondazione Emilio De Magistris, prima c'erano due grandi fasci che sono stati scalpellati dopo nel 45, e questo edificio massiccio, gigantesco, è stato sovrapposto ad altre case esistenti, distruggendo le stesse, ed era un po' nel cuore del quartiere in Piazza Cantore. Ecco, questi fascisti vennero osteggiati dalla popolazione del quartiere, ma non per spirito antifascista, non c'era un grande meccanismo politico allora. Qualche storico ha detto, beh, questo popolo proletario diverso che è antifascista, in realtà semplicemente perché questi qui volevano mettere ordine nel quartiere, non perché fossero, avrebbero osteggiato con altrettanta durezza anche un'altra ideologia politica che avesse voluto mettere in discussione questo singolare equilibrio del quartiere. Cioè questi erano prepotenti, sovrapponevano la propria cultura a quella di tutte le altre, volevano che l'unica giusta fosse quella loro, e quindi c'erano grandi risse, grandi scontri, grandi botte, e determinando questo equivoco di un quartiere antifascista. Cioè il quartiere non è fascista, non è nient'altro che un quartiere dove la dinamica nasce dal basso, fuori dall'ideologia sostanzialmente. Quindi questa battaglia avvenne contro chi tentava di modificarlo interamente. Sostanzialmente questa è stata la storia di questo quartiere fino al 1976-77, prima che iniziasse questa grande trasformazione strutturale, produttiva, economica, anche se tuttora devo dire che nella parte più specifica del cuore della casa, nonostante l'eliminazione dell'albergo popolare e la sostituzione che è sostituita da un albergo e da un residence eccetera eccetera, per una sua parte è ancora profondamente diversa. L'unico punto limite estremo è l'introduzione nel quartiere del traffico dell'eroina, che ha provocato le più grandi contraddizioni, perché è una cultura limite, senza regole. In tutte le altre culture passate avevano delle regole, l'eroina non per non per colpa del tossicodipendente eroinomane, ma per sua condizione specifica, è una cultura limite priva di regole e quindi tende a entrare in frizione e in contraddizione col quartiere. Ma questo è proprio il punto limite della cultura del capitale, cioè l'eroina. Locale in via Foscolo, dietro via Montenero, era il primo, credo il primo locale interamente gay milanese. Ah, devo dire che il proprietario era un esquadrista camicia nera e quindi aveva dietro il banco la sua foto con la camicia nera, no? In realtà era gay, no? E poi si andava in una stanzetta dietro, c'era un jukebox e c'è, è la prima volta che l'abbiamo visto noi, insomma, nel senso, dopo è diventato più normale, insomma. Però tu ti sedevi lì a bere e c'era un uomo che ti veniva a chiedere di ballare, no? Era un episodio assolutamente scioccante, no? Mi chiedeva di ballare. Allora le prime volte c'erano reazioni molto dure. E poi è cominciato questo gioco, questo divertimento, perché come dicevo in un'altra puntata, c'erano gay nella compagnia, ma non accettati con la loro complicità, bastava che non premessero eccessivamente, quindi era un'accettazione controllata. Ma questa addirittura di questi che ti venivano a proporre era... Tanto che una sera venivano portati, di tutti i gay che c'erano dentro, io e altri cinque venivamo portati via, perché in qualche modo estranei all'ambiente e per cui particolarmente sospetti, perché la polizia fece un controllo, lasciò tutti i gay e portò via solamente noi, no? Perché voleva capire, perché voleva catalogarci per capire cosa eravamo. E quindi nascevano queste cose, camminavi e devo dire che la notte milanese ti riceveva delle sorprese sorprendenti, ad esempio qui all'altezza dei Navigli, dove adesso c'è il Malibu, credo, un locale, all'inizio dei due locali dei Navigli c'era una vecchia osteria, sostanzialmente, dove andava Vittorino. Ora, non che tu avessi queste grandi competenze culturali, però sapevi qua e là che esistevano questi scrittori, queste cose qui, leggevi un po' di giornali, e ci andava anche Quasimodo, ci andava anche Ivan Della Mea. Tanto è vero che Ivan Della Mea fece una canzone titolata Aquelon che incontrava ogni sera in via Gorizia, no? Vicino ai Navigli. E quest'uomo è dedicato a Vittorini, perché lui lo incontrava ogni sera lì, no? Cioè lo incontrava in questa zona. E tu avevi una grande, quello che caratterizzava il comportamento collettivo era questa enorme curiosità di vedere chi erano gli altri, no? Prima richiuso nella banda, poi la banda si apriva e volevi capire cos'erano tutti gli altri, no? Cosa diavolo facevano, come si comportavano e perché erano, magari scrivevano sui giornali, sembra un tempo lontano, ma questo creava un'enorme curiosità, insomma, questa cosa qui. Per cui, non so, fino agli episodi che anche gente non politicizzata andò a fare servizio d'ordine per la prima della Dolce Vita di Fellini al Capitol, perché la borghesia milanese era incazzatissima, già c'erano state sulla notte, sul giornale, una campagna contro questo film che attaccava la borghesia corrotta, romana e simili, e per cui si prevedevano incidenti. E per cui di fatti durante la proiezione ci furono sputi contro Fellini che era presente, ci furono tentativi di aggressione fisica. E in realtà noi ci divertimmo molto, molto a vedere questa dolce vita, senza capire probabilmente l'importanza, insomma. Però alla fine facemmo anche sostanzialmente fuori dal Capitol, noi non solamente io, centinaia, ma proprio come opposizione a questi qui, no? Non è che era una cosa... È un servizio d'onore per difendere Fellini dagli insulti della più grossa borghesia milanese, erano elegantissimi tutti, no? Perché erano forme quindi che nel sociale poi acquisirono una qualche intelligenza politica sostanzialmente. Ecco. E quindi anche stare vicino a un tavolo a bere per un'ora sentendo questo Vittorini che giocava a carte con altri, no? Cioè, e che discuteva del Menabò, allora stava costruendo una rivista che era il Menabò, e che sarebbe stata pubblicata in Audi, che cercava la letteratura industriale, Volponi ad esempio si è rivelato con quella rivista lì, anche Mastronardi, il maestro di Vigevano, e quindi stavi a ascoltare, non capivi, però insomma acquisivi una serie di queste questioni, ed era un'occupazione del tempo andare a vedere quello che facevano, andare dagli artisti a Brera, a sedere totalmente estranei a quell'ambiente, e vedere quello che facevano, però acquisivi dati, acquisivi, accumulavi competenze, intelligenza, tutto tra uomini, sembra girare tutta la notte in questo modo qui. Con un episodio divertente che cito di questo oste, Esma Libù, insomma, No, oggi Malibu era un piccolo grotto piemontese, che si chiamasse, il quale era un pochino più colto, aveva capito che lui aveva questi clienti tipo Vittorini, quasi, e ora diceva sempre agli altri che operai, i proprietari che andavano lì: ma voi altri non avete capito, un accidente, qui c'è la gente in gamba che viene. E nessuno gli ha mai creduto sostanzialmente, perché lui diceva: c'è Vittorini che viene qui. Quando Quasimodo ha preso il premio Nobel, lui ha messo fuori la cosa: questo è un mio cliente, no? E l'hanno sfottuto per 6 mesi, dicendo: sai, ormai è andato, è matto, lui pensa di avere qui chissà cosa in questa teoria, perché gli risultava assolutamente oscuro. E questo ha sofferto per 3 o 4 anni, questo fatto della credibilità sulla sua clientela, no? E ogni volta chiedeva a noi: ma voi che ne capite un po' di più, diteglielo, porco Dio Digel, che è vera che venchi il premio Nobel, porco Dio, no? Allora gli abbiamo portato questa poesia che lui ha attaccato fuori, dietro il bar, ed è subito sera, no? Perché era sui navigli, che era quella di Quasimodo, ma lui l'ha attaccata lì, e diceva, l'ha scritto al mio cliente, diceva a questi qui che erano ubriaconi, avevano 4 anni, cioè, che l'ha scritto al mio cliente, ma come va a dormire? L'unica volta in cui gli avevano creduto precedentemente era su Cesaroni, uno della banda di Bisopo, il quale frequentava anche lui questo posto, ma lì gli avevano creduto per quello era normale. Che Cesaroni fosse lì, ma non era normale che ci fosse. E quindi diventavi molto amico, sostanzialmente, intendo dire, di questi ambienti, di questi ossidi. E le devo dire che nasce allora l'abitudine di una certa intellettualità milanese a frequentare le osterie come alternativa ai grandi locali di lusso del centro. Sarebbero nati rapidamente, nel giro di 2 o 3 anni, Moncucco, che poi è diventato locale delle streghe con le strage famosa della Mala, il Praticello oggi demolito, e tanti locali di questo tipo, in cui si mischiavano praticamente una certa borghesia intellettuale sinistro, libera, radical, non so, milanese, con strati popolari, con la vecchia clientela, la più famosa ovviamente è la briosca di questi qui, no? Con la vecchia clientela di quella struttura, creando uno strano humus culturale di comunicazione estremamente divertente, per cui queste osterie diventavano uno spettacolo la sera. E quelli che suonavano e cantavano non erano pagati, che andavano lì per suonare queste cose e per diventare in qualche modo famosi, ma non per farlo di lavoro, diventare famosi nel senso che erano poi molto conosciuti e avevano queste caratteristiche, e poi ovviamente erano più donne in quanto molti conosciuti, perché c'è, non dimentichiamo questo aspetto, e lasciano queste cose qui. In parallelo c'erano fenomeni molto molto giovanili di comportamenti improvvisi e stupefacenti. Ecco, nascono allora i Teddy Boys, fecero un grande rumore. Questi Teddy Boys in realtà non c'entravano niente con gli equivalenti inglesi, perché sarebbero i Teddy in Inghilterra, si vestivano come Edoardo, no? Edoardo d'Inghilterra, quindi erano serissimi, con un certo tipo di vestito, col collo alto, erano eleganti. Invece questi si vestivano praticamente, erano un po' confusi, si vestivano come nel Selvaggio di Marlon Brando, un film che ha avuto enorme successo nei quartieri popolari milanesi, cioè con i giubbotti neri, incazzati con le catene, un po' con qualche borchia, con un senso della violenza, e poi si definivano Teddy Boys, che quindi erano una fusione di due culture provenienti dall'estero, ma che ne provocavano una terza misteriosa. Erano sempre incazzatissimi e giravano di notte anche loro in banda con i piccoli capi, e spaccando macchine e soprattutto aggredendo chi si vestiva in modo normale ed era in giro con le ragazze. E lo odiavano sostanzialmente, perché forse aveva questo privilegio, non so, deducevano che questo era un nemico, cioè, quindi c'erano episodi anche non gravissimi, non c'è mai stato un fatto talmente grave, però pestaggi molto frequenti, sono durati poco, però fu sconvolgente per i media milanesi e nazionali questa storia dei Teddy Boys. Se ne impadronirono le prime pagine dei giornali, sembrava che si fosse nel clima di New York, delle bande del Bronx, con una serie, fecero persino un convegno incredibile a Venezia con Carnelutti, che era un principe del foro di allora, no? Il quale tuonò che questa questione dell'aggressività derivava dal fatto che i giovani usavano le moto, ed essendo la moto un simbolo sessuale perché viene cavalcata, questo produceva aggressività irrisolta da questo questo era un grande principe, era un avvocato di enorme importanza allora, che diceva queste cazzate in questi convegni. Un psicologo. Questa storia della moto mi rimase impressa, anche se non avevo grande esperienza di sociologia, però mi sembrava una bizzarria tale che fosse determinata dall'aggressività irrisolta. La moto poi non è la donna, ma però tu la simuli nella testa come tale, e essendo irrisolto alla fine scarichi la violenza contro chiunque incontri per strada. Mi sembra demenziale. Però fecero dei convegni interi, Fondazione Cini, dico, no, mica queste cose qui, a Casa della Cultura, e come i Teddy Boys. Credo che in tutta la città non fossero più di 200 sostanzialmente che si vestivano in quel modo. Erano molto casinisti, erano molto. E nascevano più o meno negli stessi quartieri dove c'erano le grandi bande precedenti, alla Trecca, alla Baia del Re, a Giambellino, a Baggio, più o meno, sempre in questi quartieri dove la frantumazione col centro, cioè la rottura col centro, che era un territorio di conquista dove c'erano i nemici, no? E credo che poi è durata negli anni, no? Gli indiani metropolitani sono quelli che stavano nelle riserve, c'erano i grandi quartieri, e poi scendono nel centro a conquistare le merci dei bianchi, sostanzialmente. Quindi è una cosa che si ripete ogni tanto, con caratteristiche ovviamente profondamente diverse, però la logica che sta dietro, il meccanismo che muove è quello lì, no? È quello. Quindi li incontravi di notte e non sapevi mai se avevi la volontà di farci a botte con questi qui, perché eri molto attrezzato, avevi fatto tantissime risse negli anni 50, perché poteva essere un termine di sfida. E poi invece in realtà ci sono diventati rapidamente simpatici, abbiamo cominciato a pensare che non capivano un cazzo lo stesso questi qui, ma che però erano abbastanza simpatici per girare qualche volta insieme. Erano incontrollabili perché non rispettavano l'ambiente, cioè nell'osteria, dove tu andavi lì per ascoltare, sentire queste canzoni, le scoperte, queste cose qui, gente, vedere come si comportava la gente diversa, vedere queste donne bellissime, la borghesia elegantissima, profonda. E invece lo arrivavano dentro, si incazzavano e cominciavano a spaccare qualche sedia, e quindi rompevano questo clima, ed eri costretto poi a reggere l'argomento, perché non tollerare che venissero repressi comunque, no? Beh, allora alla fine si schieravi con loro, ma questa la cosa diventava complicata. Allora prima abbiamo deciso...